24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:33 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati a 24 mattino. Staremo insieme come di consueto fino alle 9. Vi ricordo già da subito il sondaggio. Dalle 8:30 alle 9, oggi è una giornata importante in Brasile per decidere se estradare Cesare Battisti, richiesto dall'Italia, deve scontare 4 ergastoli per delitti commessi alla fine degli anni 70. E questa è la domanda che vi poniamo. Dal caso Battisti, siete favorevoli a un'amnistia per chiudere gli anni di piombo? Per votare dovete andare sul sito della radio, radio24.it, a bianco o nero, oppure sul sito del Sole 24 Ore, ilsole24ore.com. Questo più avanti, prima, come di consueto, la lettura dei giornali. In primo piano. Voglio iniziare da Mike Bongiorno, perché è la notizia che trovate su tutti i giornali, la sua scomparsa, 85 anni, è la notizia che accomuna non solo i giornali, l'Italia, un pezzo d'Italia, gran parte di storia della TV. Anche perché poi ci sono tante altre notizie su politica, veleni, i verbali pubblicati dal Corriere della Sera sull'inchiesta di Bari. E questo di certo farà molto, molto discutere. Mike Bongiorno, però, per l'appunto. E questo è il titolo semplice del Corriere della Sera. Mike Bongiorno, 1924-2009. Ma c'è ovunque, da Addio Mike, il signore della TV, su Repubblica. L'Italia piange il papà della TV per la Stampa. Addio Mister Allegria, il giornale. Il Manifesto titola proprio con una foto di Mike Bongiorno, con scritto sigla. E ancora Mike, il primo cavaliere riformista. Addio Mike, papà della TV, il Messaggero. Insomma, c'è davvero dappertutto, come dappertutto trovate commenti, foto, ricostruzioni della sua vita, del simbolo, di questo simbolo davvero dell'Italia. Ne ho scelto uno su tutti, quello di Aldo Grasso, pagina 2-3 del Corriere della Sera. Scrive Aldo Grasso: addio a Mike, il re della TV. La cosa più sorprendente di Mike è stata la sua vita al di fuori del piccolo schermo, una vita intensa, quella di Michael Nicholas Salvatore Bongiorno, senza la U, come ci teneva a precisare. L'immagine che negli anni ci siamo fatti di lui era quella di un pignolo, di un uomo comune, di un maniaco del dettaglio insignificante. E invece la storia della sua vita stupisce per intensità, colpi di scena, ricchezza di aneddoti, l'infanzia newyorkese, la tata di colore Lucy, le prime esperienze di lavoro a Torino, la Resistenza, San Vittore, la voce dell'America, Vittorio Veltroni, Lascia o raddoppia, le numerose vallette, la storia d'amore con Daniela. Pignolo era Pignolo, ma anche candido e allegro, un Forrest Gump giustamente baciato più volte dalla ruota della fortuna. Mike era un candido, scrive ancora Aldo Grasso. Personalmente ritengo fosse anche un poeta dadaista, forse l'ultimo. Era un dadà, Mike, perché non ha mai tentato, facendola, di prendere le distanze dalla TV, di distruggerla con la pretesa di svelarne i meccanismi occulti. No, lui ha operato sull'idea che noi abbiamo della TV, ha ridotto le sue frontiere rigide, ha abbassato le sue altezze immaginarie, le ha sempre assegnato un posto subordinato rispetto alle esigenze di chi la guarda. Solo uno con una vita avventurosa poteva costruirsi una seconda lunga vita televisiva, semplice nella sua assoluta complessità. Ma anche Berselli, insomma, su Repubblica fa una lunga e dettagliata descrizione della vita, e non solo della vita, del simbolo che è stato Mike Bongiorno. Davvero i giornali dedicano pagine e pagine su quello che, come detto, è un pezzo di storia d'Italia e sicuramente gran parte di storia della TV. Ma come dicevo, bisogna abbandonare un po' questo clima edulcorato per passare alla politica, ai contrasti, ai veleni, alle tensioni. Che dite del titolo del Corriere della Sera e dei verbali che pubblica e che faranno certamente discutere? Escort e politici, ecco i verbali di Bari. Un articolo di Fiorenza Sarzanini. Tarantini, 18 serate da Berlusconi con 30 ragazze, e anche gli incontri del PD. Frisullo, ex assessore della Regione Puglia del Partito Democratico. Due pagine, Tarantini, il premier e quelle 30 ragazze, 18 serate scritte in modo più che dettagliato da un verbale, il verbale che Tarantini ha rilasciato in un interrogatorio il 29 luglio scorso, durante l'interrogatorio nella caserma della Guardia di Finanza di Bari, convocato in segreto come indagato per favoreggiamento alla prostituzione, ed eccolo qui sul Corriere della Sera le carte del verbale. Dice Tarantini: ebbi, per esempio, ho accompagnato in un'occasione Terry De Nicolò a casa del presidente Berlusconi a Roma. Ebbi a retribuirla anticipatamente nella previsione di una prestazione sessuale, poi non so se sia avvenuta. E ancora, Vanessa Di Meglio, tendenzialmente la stessa non è una professionista del sesso, ma all'occorrenza non disdegna di essere retribuita per prestazioni sessuali. Ho favorito le prestazioni della Di Meglio con il presidente Berlusconi in due circostanze, a Roma il 5 settembre e l'8 ottobre 2008. Ricordo che il 5 settembre la Di Meglio si fermò a Palazzo Grazioli. E ancora, in occasione di un incontro a casa del presidente Berlusconi, il 23 settembre 2008, invitai Francesca Garasi con tre sue amiche, Carolina Marconi, attrice di Canale 5, Geraldine Semeghini, che era responsabile del privé del Billionaire, e si presentò con una sua amica, Maria Teresa De Nicolò. In quella circostanza mi limitai ad ospitare Geraldine Semeghini e la sua amica, ma l'unica che ebbe un incontro intimo fu la De Nicolò. Insomma, poi il racconto di Patrizia Daddario, sono lunghissimi, dettagliati, è un verbale di un interrogatorio di cui è entrato in possesso il Corriere della Sera. A fianco, donne al PD Frisullo in cambio di favori, le accompagnavo nel suo appartamento, è sempre lo stesso interrogatorio, è sempre Giampaolo Tarantini il 29 luglio, che racconta anche di come avevo la disponibilità delle chiavi dell'appartamento, in quanto lo stesso Frisullo me le diede nel 2007, chiedendomi di far effettuare dalla ditta di fiducia opere di pulizia. Ho trattenuto le chiavi per miei incontri occasionali con alcune ragazze. Ricordo di aver accompagnato la De Nicolò in quell'appartamento al fine di farla incontrare con lo stesso Frisullo, sicuramente prima dell'estate 2008. Insomma, dettagliati verbali su presunti rapporti, sui racconti di Tarantini, ripeto, il premier e quelle 30 ragazze, 18 serate, 1000 euro a chi restava. Dice Tarantini nei verbali, le retribuivo, ma senza dirlo a Berlusconi. Come dire, ci sarà del materiale per un'altra giornata incandescente dopo questi verbali del Corriere della Sera. Come incandescente è stata ieri la giornata dopo che Berlusconi ha parlato un po' a tutto campo di crisi economica, ma anche di politica. Ha anche attaccato, e su questo si soffermano molti giornali, alcune procure, tanto che l'apertura di Repubblica, Berlusconi attacca le procure. Il premier, due procure congiurano contro di me, ne parlano tutti i giornali, si riferisce a Milano e Palermo, che guardano ancora fatti del 92. A questo proposito La Stampa intervista l'ex magistrato D'Ambrosio, Gerardo D'Ambrosio, che oggi è un senatore del Partito Democratico e che replica: la magistratura non può fermarsi sui fatti di mafia. Il presidente Berlusconi, dice D'Ambrosio, e quelli della sua parte politica si convincano una buona volta: in uno Stato di diritto vige il principio della legalità, e purtroppo in Italia, così come la corruzione, ci sono organizzazioni criminali fortissime che vanno combattute. Che cosa si vuole? Che la magistratura rimanga inerte? E ancora D'Ambrosio più avanti dice: stiamo parlando di fatti gravissimi, fatti rimasti misteriosi. Si concentra su questi fatti Attilio Bolzoni, a pagina 3 di Repubblica. Il personaggio chiave sarebbe questo Gaspare Spatuzza, un nuovo pentito che riscriverebbe la strage di Via D'Amelio, dicendo che gli esecutori materiali non sono quelli che sono stati condannati. Lui si autoaccusa di essere stato l'uomo che per i fratelli Graviano sostanzialmente ha portato l'esplosivo sotto Via D'Amelio. E scrive proprio Bolzoni: Spatuzza ha parlato tanto proprio dei Graviano, i fratelli Graviano, i capi mandamento del quartiere Brancaccio, e dei loro interessi a Milano, delle amicizie importanti che avevano in ambienti imprenditoriali, dei Graviano e dei rapporti che avrebbero avuto con Dell'Utri, riferiscono tanti altri pentiti, tutti passati al vaglio dei giudici di primo grado che nel dicembre 2004 hanno condannato il fondatore di Forza Italia a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Dunque, secondo la ricostruzione di Bolzoni, è questo: dalle carte delle stragi di mafia al titolo, quella trattativa tra boss e politica e anche i contatti fino al 94, anno di nascita di Forza Italia. Una tesi che è ovviamente duramente attaccata dall'altra parte dal giornale Libero. Libero che proprio 3 giorni fa fece un'anticipazione a firma Gianluigi Nuzzi, che oggi ritorna su questo tema a dire vi raccontiamo sostanzialmente che cosa bolle in pentola nelle procure di Milano e Palermo. E infatti oggi Libero titola così: così vogliono far cadere Silvio. Il cavaliere all'attacco, frammenti di procura da Palermo a Milano cospirano contro di me usando i soldi dei contribuenti. E Gianluigi Nuzzi fa una lunga editoriale, parte in prima pagina, una ricostruzione proprio a spiegare quella che sarebbe questa congiura delle procure. Avanza il teorema Boccassini Ingroia, vale a dire la PM Boccassini a Milano e Antonino Ingroia a Palermo. E l'editoriale proprio di prima pagina di Libero di Mario Secchi è: ci riprovano un'altra volta. Ovviamente ci riprovano, sono i magistrati, sono i giudici. E questo, tra l'altro, l'altro tema di scontro della politica è quello tra Fini e Berlusconi. Ne abbiamo parlato anche ieri, e Berlusconi ha detto tutto a posto con Fini. Poco dopo Fini ha detto non è tutto a posto, ci sono dei problemi. Alto tradimento, questo è il titolo di apertura dell'Unità, con una foto che proprio mette vicino Fini e Berlusconi. Tra l'altro c'è un'interessante intervista proprio sull'Unità di Federica Fantozzi a Domenico Fisichella, che è uno dei fondatori di AN, poi si è smarcato dallo stesso Fini, e che dice sostanzialmente: oggi Fini, dice Fisichella, non ha mai amato il suo partito e larga parte dei suoi colonnelli non hanno amato lui. Detto questo, sul piano della linea politica considero un errore il suicidio di AN. Intende la confluenza nel Partito del Popolo della Libertà? Eh sì, oggi Fini ha una libertà politica superiore che se AN fosse rimasta in piedi, ma non gli resta nessuno strumento reale per sviluppare una sua azione nei prossimi anni. E dice Fisichella sostanzialmente potrebbe fare Fini un nuovo partito secondo questa ricostruzione da parte di Domenico Fisichella sull'Unità. In primo piano oggi Vittorio Feltri sul giornale attacca Antonio Di Pietro. Di Pietro sotto inchiesta, questa è l'apertura del giornale. Finanziamenti ai partiti, la Corte dei Conti ha aperto un'indagine per far luce sui rimborsi elettorali all'Italia dei Valori. A incassare il denaro non sarebbe il partito, ma un'associazione presieduta dall'ex PM. C'è un lungo articolo all'interno di Paolo Bracalini e Gianmarco Chiocci: rimborsi elettorali all'Italia dei Valori, indagato Di Pietro. E dunque sembra proprio, con tutta la ricostruzione del giornale, che insomma oggi l'attacco politico sia molto frontale nei confronti del leader dell'Italia dei Valori. Abbandoniamo per un attimo la politica, che davvero campeggia in tutte le salse e con tutti i suoi veleni sui giornali, per innanzitutto la notizia di cronaca di cui ci occuperemo anche alle 8.30. Come detto, Battisti, il giorno della verità, tensione Italia-Brasile. Questa è un'intera pagina sul Messaggero. Oggi l'alta corte brasiliana si riunisce e dovrà pronunciarsi sulla richiesta di asilo politico dell'ex terrorista, che non sarà in aula, fa sapere il Messaggero, e che, come detto, deve scontare 4 ergastoli in Italia per 4 omicidi negli anni di piombo. D'Ambrosio, tra l'altro, parla, Stefano D'Ambrosio, magistrato in prima linea nella lotta al terrorismo, è un omicida, la politica non lo protegga. Questo in un'intervista proprio al Messaggero. Io vi invito ancora a votare, come state già facendo in tanti, sul sito di Radio 24, sul sito del sole24ore.com, perché questa è la domanda che ci porremo e che vi vogliamo porre, e cioè se dal caso Battisti è secondo voi necessaria una amnistia per chiudere i conti di quella pagina storica, i conti degli anni di piombo. Veniamo all'economia. Un interessante articolo sul Sole 24 Ore che apre sull'incontro ieri di Berlusconi, il titolo d'apertura di prima pagina è sgravi fiscali per i contratti, ma quello che mi ha colpito molto è quello che il Sole 24 Ore pubblica a pagina 3. Articolo di Alessandro Merli: fare impresa, Italia al 78° posto. Oggi la Banca Mondiale, scrive Merli, pubblica l'annuale classifica Doing Business, nella quale esamina il peso e il costo della burocrazia per adempimenti, come avviare o chiudere un'attività, i rapporti di lavoro, l'accesso al credito, il pagamento delle imposte, il commercio internazionale. Ebbene, in questa classifica l'Italia, che non ha mai brillato, quest'anno scivola ancora dal 74esimo al 78esimo posto, è ultima dei paesi industriali dell'OCSE davanti alla sola Grecia. Perse altre 4 posizioni dunque in questa classifica Doing Business, come fare un'impresa. Al primo posto in questa classifica c'è Singapore, Nuova Zelanda, poi quindi Hong Kong, Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca, Irlanda, Canada, Australia, Norvegia, Georgia, Thailandia, Arabia Saudita, Islanda, Giappone, e buon 78esima appunto arriva l'Italia. E tra l'altro scrive Merli: nella riga relativa all'Italia c'è un solo commento: nessuna riforma. E beh, davvero impietosa questa classifica, che certifica che da questo punto di vista i passi e da gigante sono ancora da fare. E sempre il Sole 24 Ore, pagina 5, torna ovviamente sul titolo d'apertura, l'incontro di ieri di Berlusconi, che era a Milano: sgravi sui salari, il premier promette il tavolo sulla defiscalizzazione. E poi La crisi, dice Berlusconi, il peggio è alle spalle. Andiamo a vedere qualche altra segnalazione che mi ha colpito dai giornali. È quella che trovate un po' ovunque, ma un'intera pagina sulla Stampa: morire di fame in prigione. È la storia di Samin Barca Ben Garghi, 42 anni, una di quelle piccole senza indulgenza né compassione, scrive Paolo Colonnello. Intanto perché Sami era tunisino, poi perché era in carcere da 3 anni per una storia di droga. Infine perché per 2 volte era stato riconosciuto colpevole di sequestro di persona e stupro nei confronti della donna marocchina con cui aveva convissuto 13 anni. Una condanna che lui riteneva ingiusta, infamante, inconcepibile. Per questo ha rifiutato i pasti, ha smesso di bere. Uno sciopero della fame durato 40 giorni finché questo detenuto ieri è morto. E tra l'altro c'è un'intervista a Valerio Nida, giurista, presidente emerito della Corte Costituzionale, che dice che purtroppo il fenomeno dello sciopero della fame è abbastanza diffuso nelle carceri italiane. Normalmente gli scioperi si riescono a interrompere, dice Onida, ma se il detenuto resta lucido, come è stato questo tunisino, a rifiutare il cibo fino all'ultimo, nessuno può farci nulla e nessuno può obbligarlo. Ancora 2 segnalazioni. Corriere della Sera: interessante principio stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, ne scrive oggi Luigi Ferrarella: obbligo di cura reciproca anche per chi convive. Non soltanto il matrimonio tra marito e moglie, ma anche il rapporto di convivenza, se intenso e protratto nel tempo, possono far scaturire lo stesso dovere di cura, gli stessi reciproci obblighi di assistenza morale e materiale che la legge pone a carico dei soli coniugi. È un innovativo principio prospettato dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo a un uomo imputato di avere abbandonato per 2 mesi nel degrado e da sola nel letto la convivente, incapace di provvedere a se stessa a causa di una grave malattia. E dunque è un principio sicuramente innovativo, perché appunto almeno in tribunale apre a diritti e doveri anche per le coppie di fatto. Voglio fare un'ultima segnalazione dalla Gazzetta dello Sport. Solo vincere, questo è il titolo d'apertura, perché ci sono le qualificazioni mondiali. Stasera la nazionale è a Torino contro la Bulgaria. Lippi cambia 4 uomini, questo ci fa sapere la Gazzetta. E immancabile, non posso che chiudere con Gene Gnocchi: David Beckham, oltre al Milan, ha altre 3 offerte. L'Isola dei Famosi, la Talpa e il Grande Fratello. Sapete che David Beckham ha detto: chissà se ritorno al Milan. Ci fermiamo qui per la lettura dei giornali. Ricordo soldi e dintorni alle 8:15, subito dopo il GR. Parleremo dell'oro. L'oro che risale sopra i $1000 l'oncia, e quindi se conviene o no investire nell'oro. E poi il sondaggio alle 8:30 sulla amnistia per gli anni di piombo dopo il caso Battisti. Che ne pensate? Andate a votare sul sito della radio. Eccoci alle 8:17 minuti. Io vi ricordo, perché non l'ho fatto, che potete telefonare per intervenire nel sondaggio dalle 8:30 alle 9. 800 24 00 24. Il sondaggio che oggi vi poniamo è quello dal caso Cesare Battisti, che attende l'estradizione in Brasile. Siete favorevoli a un'amnistia per chiudere con gli anni di piombo? Tutto questo più avanti. L'economia. soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci Alessandro, qua. Ciao, non ho votato, confesso subito, lo faccio dopo. Perché già ho subito una bella strigliata questa mattina. La giornata è partita proprio bene. È la nuova, è il nuovo siparietto, il voto. Hai votato o non hai votato? È il tentativo di sviare dal alzami il volume delle cuffie, che anche oggi abbiamo alzato, ed è tutto a posto. Allora, oro stamattina. Oro, come detto prima, parliamo dell'oro che trionfa. Sì, perché, esattamente, perché ne parliamo. Qualcuno sicuramente ci avrà fatto caso questa mattina sui giornali. C'è una bellissima e molto interessante analisi approfondita sullo scenario economico che fa da sfondo a questo record toccato ieri stamattina sul Sole 24 Ore, firmato dal collega Roberto Capezzoli, che è l'uomo delle materie prime per il nostro quotidiano. Allora, è di ieri mattina la notizia: l'oro è ritornato a sfondare la soglia dei $1,000 l'oncia al fixing di Londra, proprio come era successo il 20 di febbraio, a cui avevamo dedicato peraltro di nuovo spazio anche in questa trasmissione, a Soldi e Dintorni. Ieri è stata raggiunta appunto la soglia di $1,002,73 l'oncia. Peraltro la soglia dei $1,000 è stata superata solamente 5 volte. Ieri, dicevamo, poi lo scorso febbraio e altre 3 volte nel marzo del 2008, mese in cui l'oro aveva raggiunto il record storico assoluto di $1,032,70 l'oncia. Cosa c'è dietro questa tendenza? Ma soprattutto ritorniamo un po' a dare qualche suggerimento a chi è interessato all'investimento in oro. Ci sono varie forme: c'è l'oro fisico, c'è l'oro proprio come prodotto di investimento legato per esempio a fondi comuni, ad ETF, quindi tante forme, e soprattutto quali prospettive ci sono per chi fosse interessato ad un investimento di questo tipo. Ne parliamo con chi ne avevamo già parlato lo scorso febbraio, interpellato questa mattina anche dal Sole 24 Ore, dal collega Roberto Capezzoli. Buongiorno a Roberto Binetti, amministratore delegato di Confinvest. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Confinvest è una finanziaria privata fiduciaria delle principali banche per le monete e i metalli preziosi. E allora, come Roberto Capezzoli, anche altri colleghi di altri giornali stamattina così spendono qualche parola per descrivere questa tendenza. Le motivazioni che hanno riportato gli investitori sull'oro sono molte: il dollaro che sta continuando a scendere sull'euro, il cross è a 1,45 da qualche giorno a questa parte, si è riportato ieri su questa soglia, il petrolio che scende, l'incertezza economica, le prospettive di una fiammata inflazionistica, questa ci sarà, tornerà, perché i tassi di interesse sono molto bassi, per cui l'economia un po' per rientrare nei ranghi dovrà per forza riportare i prezzi verso l'alto. E poi c'è l'India, che fa una grande richiesta di oro da qualche tempo a questa parte. Dottor Binetti, quali sono secondo lei però le motivazioni più forti di questa tendenza? Qual è la sua analisi? Il risparmiatore medio deluso dai bassi rendimenti dei titoli di Stato, poi non si è ancora certi della affidabilità della borsa. Le tenga presente che questo sfondamento della barriera dei $1,000 l'oncia potrebbe innescare una reazione psicologica di preoccupazione sulle vere attuali condizioni finanziarie globali. Insomma, il risparmiatore si chiede come mai l'oro vola a questi livelli. Pertanto, anche per un timore di una prossima inflazione, come giustamente diceva lei prima, molti investitori potrebbero affidare, anzi già affidano, parte dei propri capitali all'acquisto di oro, in particolar modo in Italia, di oro fisico, monete e lingotti. C'è anche un fattore statistico, leggevo ieri dottor Binetti, settembre è sempre stato un periodo positivo per l'oro, lo dice appunto la statistica, sì, e tra l'altro non casualmente mi sembra di ricordare che lei proprio in un'intervista al giornale poco prima dell'estate aveva già suggerito agli investitori di comprare una certa tipologia d'oro, adesso ne parleremo, aveva già previsto che a settembre questa fiammata ci sarebbe stata di nuovo? Sì, sicuramente sì, era prevedibile, come noi prevediamo, che l'oro entro primavera del prossimo anno arriverà a $1,100 l'oncia, ormai siamo su questi livelli. E noi abbiamo avuto un incremento di richieste di circa del 200%, come diceva giustamente il dottor Capezzoli, in Germania la richiesta è aumentata in soli 3 mesi del 400%, idem in America. Noi riceviamo richieste per piani di accumulo in oro fisico a copertura appunto del 10-20% di quanto posseduto in liquidità o titoli. una condurazione di investimento da 1 a 3 anni. Mm-hmm. Il grosso della domanda italiana, recitiamo il pezzo di Roberto Capezzuoli, è però sulle sterline Elisabetta II, esatto, il conio più recente, mentre altre monete di pregio vengono scelte soltanto nel caso si desideri regalarle. Perché le sterline Elisabetta II sono così ambite? Nell'area collettivo la sterlina è sicuramente la moneta d'oro più importante al mondo, non c'è dubbio, in qualsiasi parte del mondo ci sono sterline d'oro. C'è molta facilità nella monetizzazione, a differenza di altre monete o a differenza dei lingotti. Pertanto l'investitore preferisce accumulare ancora sterline oro che di fatto poi valgono quasi come valore di intrinseco di oro puro, cioè non hanno delle valenze numismatiche o delle plusvalenze sul valore finale. Pertanto c'è una notevole richiesta di sterline oro, in particolar modo della sterlina Elisabetta II. Ha citato il lingotto, che invece adesso è molto poco ambito, o comunque molto meno rispetto ad una moneta. Ma vede, il lingotto è stato proibito in Italia fino alla fine del 1999 perché c'era il monopolio e l'italiano, il risparmiatore, non poteva detenere oro puro. Poi il mercato si è liberalizzato, però di fatto questa tendenza a favore delle monete d'oro ha continuato. Insomma, questo è il motivo, anche perché per vendere lingotti necessita sempre una fattura di possesso, ecco, per dimostrare che il possesso è lecito, la sterlina no, invece, perché la sterlina è stata coniata negli anni 70, 65, 70, 76, pertanto il mercato era libero in quel periodo. Dottor Binetti, cosa sono i marenghi? I marenghi sono delle monete, come lei ben saprà, appunto vecchie, non napoleoniche, che hanno un peso di circa 6 grammi, 5,8 di oro fino, che hanno una buona richiesta. Per esempio il marengo svizzero è stato principe per molti anni come fondamentale nell'investimento di monete d'oro, però in Italia non ha avuto un grande successo, ripeto, in Italia solo esclusivamente la sterlina d'oro e forse a ruota un po' i marenghi italiani negli ultimi anni. Allora, abbiamo parlato del marengo, delle sterline Elisabetta II, della minor fortuna che in questo momento hanno i lingotti, però la forma di investimento in oro può essere ulteriormente diversificata. Abbiamo i fondi di investimento, quindi prodotti di investimento non fisici, ma il gioiello, dottor Binetti, che stagione sta vivendo? È un po' penalizzato in questo periodo perché si paga ovviamente delle plusvalenze di lavorazione, non è una forma di investimento. Il gioiello serve come regalistica, come oggetto di piacere, non di più. Insomma, non si può parlare di investimento nell'acquisto di un gioiello. E parliamo invece dei prodotti di investimento che non sono fisici. Dicevamo, sul mercato sono disponibili tanti prodotti, per esempio ci sono più di 60 fondi di investimento specializzati, sono gli ETF. Che cosa sono, dottor Binetti? Sono delle forme di investimento in oro cartaceo, ecco, che noi non facciamo. In Italia è molto più seguito, molto più interessante acquistare oro fisico perché non si pagano spese, non si pagano commissioni. Per esempio noi diamo anche la giacenza presso i nostri CAVO in forma gratuita. Invece ovviamente il cartaceo ha delle spese di acquisto, spese di vendita, spese di gestione, è diverso, ecco, cioè è proprio un'impostazione completamente diversa, anche se si parla sempre di oro. Ecco. Dottor Binetti, un'ultima raccomandazione prima di salutarci a chi vuole approfittare di questa tendenza dei prezzi e chi ha anche dell'oro da parte e vuole approfittare appunto di questi rialzi recenti, che cosa può fare? Noi per esempio in questi periodi riceviamo molte offerte di materiale auro, monete eccetera, di giacenze in cassette di sicurezza per il materiale acquistato negli anni, ripeto, 60, 70, 80 come bene di rifugio. Oggi come oggi sicuramente le quotazioni inducono questi risparmiatori a vendere, questo non c'è dubbio, però l'interesse maggiore è verso un investimento per i prossimi 2-3 anni in oro. Io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, perché mi pare di capire che per lei sia un periodo piuttosto intenso ed interessante. Grazie molto, Alessandro. Eccoci allora, Salva Danaio. Salva Danaio, sai che tra un po' si celebra l'anniversario del crack Lehman Brothers e gli obbligazionisti della banca di investimento come stanno messi? Confesso che non l'ho segnato sul calendario. Adesso te lo segno io, importante. Poi ti interrogo io, altro che il sondaggio. Va bene, il sondaggio appunto 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Se volete votare invece dovete andare sul sito radio24.it o il sole24ore.it. Parliamo del caso Battisti. È necessaria un'amnistia per chiudere gli anni di piombo in Italia? Sono le 8:33 minuti, diamo uno sguardo alle notizie in primo piano. La salma di Mike Bongiorno potrebbe rientrare già oggi in Italia. Il presentatore è morto ieri per infarto a Monte Carlo, aveva 85 anni e tra qualche giorno doveva partire con un nuovo programma su Sky. La politica, rimane alta la tensione tra Berlusconi e Fini. Ieri il premier ha detto con lui tutto a posto, poco dopo la replica dello stesso Fini. I problemi ci sono, paradossale negarli. Intanto oggi il Corriere della Sera torna sulla vicenda delle escort pubblicando i verbali di interrogatorio all'imprenditore Tarantini. Secondo i verbali, Tarantini avrebbe reclutato una trentina di ragazze per le feste di Berlusconi, pagandone alcune per prestazioni sessuali. Tarantini coinvolge anche l'ex assessore pugliese Frisullo del Partito Democratico. Infine per lo sport, il calcio. Stasera l'Italia cerca punti importanti per la qualificazione mondiale contro la Bulgaria. Si gioca a Torino. Mentre per il tennis finisce il sogno di Flavia Pennetta, eliminata nella notte da Serena Williams nei quarti di finale a Flushing Meadows. E dunque alle 8:34 siamo prontissimi per il sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, per le vostre mail bianco nero@radio24.it. C'è un signore, si chiama Cesare Battisti, è in carcere in Brasile perché c'è un paese, l'Italia, che ne chiede l'estradizione, e oggi c'è un'udienza importante alla Suprema Corte brasiliana che dovrà stabilire gran parte di questo procedimento. Battisti deve scontare 4 ergastoli per omicidi alla fine degli anni Ottanta. Era un militante nei proletari armati per il comunismo, non ha mai scontato se non una piccolissima parte della sua pena in Italia, poi evase, andò in Francia, poi fuggì in Brasile e chiede in Brasile di essere considerato un rifugiato politico. Ha detto qualche giorno fa in un'intervista dal carcere: l'Italia, che ha imparato molto dal calcio di Kakà, Ronaldo e tanti altri, potrebbe ora imparare dalla saggezza brasiliana che ha ispirato l'amnistia che tanto ha contribuito alla democratizzazione di questo paese. E il nostro sondaggio è proprio questo. Dal caso Battisti, siete favorevoli a un'amnistia per chiudere con gli anni di piombo? Paolo Cento, buongiorno. Buongiorno a voi radioascoltatori. Allora, Paolo Cento, esponente politico. Lei, devo dire, i sondaggi già stanno telefonando e stanno esprimendo il voto sul sito di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore. Siamo attorno a 10% sì e 90% no contro l'amnistia. Lei, quando ieri ci siamo sentiti, ha detto: io sarò parte di quel piccolo schieramento che voterebbe sì e che non fa parte dell'ipocrisia di questo paese. Che vuol dire? Perché lei è per un'amnistia? Ma io credo che a distanza ormai di 30 anni, 25 anni, da quella che è stata una stagione drammatica del nostro paese, il terrorismo che ha visto protagonisti centinaia di ragazzi di sinistra e centinaia di ragazzi di destra, un paese democratico dove per fortuna la democrazia e le istituzioni hanno vinto contro il terrorismo, anziché rincorrere i fantasmi del passato, devono avere il coraggio di chiudere quella stagione, anche perché molti dei protagonisti non ci sono più, molti, la stragrande maggioranza, hanno pagato le proprie sanzioni penali, altri, è vero, ed è il caso di Battisti, si sono sottratti alla pena, ma hanno trovato paesi che sono paesi altrettanto civili come l'Italia, dove la magistratura di quel posto, penso alla Francia, vediamo cosa accade quest'oggi in Brasile, non hanno riconosciuto le sentenze italiane come sentenze frutto di un equilibrio giudiziario, ma fortemente condizionate dal clima che ovviamente in quegli anni c'era. Io pongo solo una condizione quando parlo di amnistia per quegli anni: il risarcimento delle vittime e la richiesta di perdono da parte di questi, sono atti simbolici, poi ovviamente non restituiscono ovviamente la vita di chi l'ha persa, ma almeno che ci sia un atto di rispetto nei confronti delle vittime e dei loro familiari, perché se lo Stato può porsi il problema dell'amnistia, io comprendo che chi ha avuto la perdita di un caro ovviamente non ha il dovere di essere clemente. Senta, ma perché sentenze di quel periodo politico, lei in qualche modo dice le condizioni contesta, che è uno dei filoni di quelli che dicono ci vuole l'amnistia, cioè era un clima politico nel quale le sentenze non erano serene, la magistratura non operava in maniera serena. Cioè lei contesta il fatto che quelle sentenze di allora non valgono? Non lo contesto, lo contestano persone dal punto di vista sia della giurisdizione costituzionale italiana sia del diritto internazionale, che riconoscono che l'Italia in quegli anni per combattere il terrorismo ha applicato delle sanzioni penali molto più dure e spesso al limite se non al di fuori della Costituzione, perché c'era la necessità, così veniva spiegato, anche con qualche ragione, di combattere un fenomeno che stava devastando la vita civile del nostro paese. Però 30 anni dopo quelle ragioni sono probabilmente, per fortuna, venute meno, se no non ci potremmo spiegare perché la Mambro e Fioravanti, condannati a diversi ergastoli, di cui uno anche sulla strage di Bologna, oggi siano persone libere. E io non sono tra quelli ovviamente che si scandalizza, perché credo che dopo aver fatto 25-30 anni di carcere, se le persone sono cambiate è giusto ridargli una possibilità. Però l'ipocrisia è questa, e noi da una parte vediamo ex terroristi di sinistra e di destra che stanno in televisione o che conducono una vita assolutamente libera, e poi ogni tanto andiamo alla caccia di qualcuno che sta all'estero pensando di tacitare le coscienze. No, questa è l'ipocrisia che lei contesta. Piero Sansonetti di recente sull'altro usa gli stessi suoi argomenti a favore dell'amnistia, a dire la questione dei parenti delle vittime. Scrive Sansonetti: secondo me questo argomento dei parenti delle vittime mi sembra che non riguardi il diritto, ma semmai la politica. I parenti delle vittime non hanno il diritto di influire sulle pene dei colpevoli, hanno il diritto di essere risarciti, aiutati, assistiti, e spesso questo diritto non viene riconosciuto dallo Stato. Ma l'amnistia non c'entra niente. Io voglio salutare Maurizio Campagna, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e anche a tutti gli ascoltatori. Maurizio Campagna è il fratello di Andrea, ucciso, agente di polizia della Digos a Milano, ucciso il 19 aprile 79. Per quell'omicidio l'esecutore materiale chi è stato ritenuto? Cesare Battisti. Cioè. Anche secondo lei l'amnistia, come dice Sansonetti, come scrive Sansonetti, come in qualche modo ha detto anche Cento, non c'entra, è un discorso diverso dal risarcimento delle vittime? Allora, il risarcimento delle vittime è già stato chiarito, anche questo è già stato chiarito, c'è una legge apposta, la 206 del 2004, tra l'altro è una legge che ha diversi problemi, abbiamo ancora diversi problemi per quanto riguarda questa legge. Qui il problema è un altro, a mio avviso. Il problema è, come diceva prima Cento, è capire se bisogna chiudere un determinato periodo e come chiuderlo. Allora, Cesare Battisti, cioè io potrei anche essere d'accordo sul fatto che determinati terroristi, dopo aver scontato la pena che è stata inflitta e dopo aver trascorso dei periodi nelle carceri, e quindi tramite altre leggi praticamente queste persone che magari sono state condannate anche all'ergastolo escono perché appunto hanno gli sconti di pena, indulti, tutto quello che vogliamo, posso anche capirlo. Non è purtroppo il caso di Cesare Battisti. Cesare Battisti non ha scontato neanche un giorno di galera in Italia per gli omicidi che ha commesso, che ripeto sono 4, 2 dei quali come esecutore principale, quindi per l'uccisione di mio fratello e per l'uccisione di Santoro, mentre invece per altri due, quelli di Torreggiani e di Sabadin, era in uno era fiancheggiatore, dall'altra parte invece aveva insomma, lei sentir parlare di amnistia le dà un po' fastidio, comunque un'amnistia così tout court, un'amnistia, però dice Cento chiedendo scusa, chiedendo perdono. Il problema è che Battisti non ha mai chiesto perdono, anzi lui è convinto, e l'ha detto più volte, che se tornasse indietro farebbe né più né meno che gli stessi passi che ha fatto. Ma lui dice di essere innocente, quindi questo... Ma non mi sembra che le carte dicano questo. Cioè... Questo sì, non è che dice ho ucciso ma non me ne pento, dice sono innocente, non c'entro. Poi ovviamente le carte processuali e le sentenze passate in giudicato dicono altro, questo per correttezza di cronaca. Certo. Ma Infatti è proprio questo che bisogna andare a leggere, no? Cioè lui dice io sono stato condannato ingiustamente perché mi hanno detto che ero in due posti contemporaneamente, sia l'uccisione di Torreggiani che l'uccisione di Sabadin. Le carte non dicono questo, cioè se volete, se gli spettatori, gli ascoltatori e anche Cento piuttosto che Sansonetti vogliono vedere le carte, leggerle, c'è il sito vittimeterrorismo.it, lì ci sono tutte le sentenze del caso Battisti, si vadano a leggere queste carte e vedranno che non stiamo parlando di una persona pentita, di una persona che chiede perdono, di una persona... Stiamo parlando di un delinquente vero e proprio, cioè stanno sprecando tempo, queste persone stanno sprecando tempo per far sì che una persona di dare spiegazioni a una persona che non ne vuole sapere, cioè nel senso era Battisti, era un delinquente che ha ucciso delle persone neanche per questioni di terrorismo, perché davvero, cioè io sfido qualunque terrorista a dire che Battisti fosse un terrorista, Battisti è un delinquente nato e è cresciuto, diciamo. Quindi... No, è chiara la sua posizione. Allora io do le informazioni sul traffico, gli ascoltatori poi all'800 24 00 24, la domanda è chiara: dopo il caso Battisti oggi vedremo che deciderà il tribunale brasiliano, siete favorevoli comunque a un'amnistia per chiudere con gli anni di piombo? Bisogna dire che le percentuali per ora, come si presumeva, come diceva lo stesso Cento ieri, sono sul 10% appena, favorevole a un'amnistia al 90%. Gli ascoltatori dicono no, ma che amnistia. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, Cesare Battisti attende in carcere oggi in Brasile la richiesta d'estradizione, il procedimento di estradizione per l'Italia. La domanda che vogliamo fare alla luce di questa vicenda è se siete favorevoli o meno a un'amnistia per chiudere gli anni di piombo. Vado a Trento da Mario, buongiorno. Alessandro, dottor Alessandro. Dica. Io personalmente, diciamo così, al momento che lui dice che è innocente, adesso io non so cosa dicono queste carte. I processi dicono il contrario, 4 ergastoli passati in giudicato, ma perché sai, tanti condannati a morte li hanno ammazzati e poi dopo è saltato fuori che erano innocenti. Comunque, vabbè. Io girerei pagina, cioè lei dice però... sia l'amnistia. Sì, alla ministeria, perché se no ce lo portiamo dentro fino al giudizio universale questo odio, questo rancore. Ah, questo è interessante. Stia lì, Mario, stia con noi, non ci abbandoni. Antonio da Milano, buongiorno. Antonio. Non ci sente Antonio, vota Antonio. Mario da Trento, stia lì. Giovanni Bianconi, buongiorno. Buongiorno. Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera, molto esperto di questi temi, ne ha scritto anche ieri e ne ha scritto di recente. Tra l'altro, Giovanni, ti chiedo, probabilmente non di schierarti, voglio dire, nel nostro sondaggio, ma almeno faccio un pronostico, perché si parla di corte spaccata, 4-4 e c'è un giudice, l'indeciso, quello a cui tutti gli occhi stanno guardando oggi in Brasile. Sì, questo è quello che riferisce la stampa brasiliana, che evidentemente è più esperta di noi su queste cose perché segue più da vicino queste cose, quindi probabilmente ha più... Lì la questione è politica e giudiziaria insieme, è tecnica ma è anche politica, essendo stata politica la decisione del governo di concedere lo status di rifugiato a Battisti, che poi è quello che dal punto di vista di nuovo politico e anche diplomatico è più preoccupa l'Italia, perché al di là del caso personale di questa persona che è ricercata ormai da quasi 30, ricercata, insomma, che è inseguita, sì, ricercata perché si sa benissimo dove, da quasi 30 anni dell'Italia, c'è questo discorso che passerebbe l'Italia come un paese dal quale si deve scappare per non essere perseguitato, certo, per motivi politici, quindi è questo che più preoccupa anche i vertici delle istituzioni italiane, i più alti vertici. Il fatto è talmente politico che c'è un inviato del ministro Alfano, tu ieri hai scritto sul Corriere della Sera, a seguire passo passo, a cercare, immagino anche di fare pressioni per quelle che si possono fare, pressioni politiche, insomma, su questa vicenda. Sì, quello è più un compito forse della diplomazia, e anche lo stesso ambasciatore italiano, che peraltro è lì da poco più di un mese, ne ha già parlato con il presidente Lula e con altre persone dell'entourage del presidente, proprio manifestando anche le preoccupazioni del presidente stesso italiano Napolitano, perché ripeto, per l'Italia sarebbe, non dico uno schiaffo, ma insomma una grave ferita, ecco, sentirsi dire che è un paese dal quale si deve scappare. L'inviato del ministro è chiaramente un discorso politico, perché il ministro è politico, però è anche tecnico, perché poi è un magistrato che si è occupato anche di queste cose e cercherà di sostenere le ragioni per le quali in Italia questa sentenza è giusta, nel senso che non è vero che l'imputato non ha potuto difendersi, perché poi lì la questione, una delle questioni è anche questa, no? Cioè si dice che al processo d'appello Battisti non era presente e questo non è previsto in altri ordinamenti che si il procedimento in contumacia. Tra l'altro vogliamo Antonio l'abbiamo recuperato. Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Lei è pro o contro l'amnistia? Assolutamente contro, ma non scherziamo. Primo Levi ha passato una vita tentando di non dimenticare e cercando di allenare la memoria per mantenere sempre vivo il ricordo di quello che gli era successo al campo di concentramento. Adesso noi parliamo di dimenticare l'amnistia, ma non scherziamo. Poi adesso non so se è un caso, appunto si parla di amicizia, di amnistia, si accosta l'amnistia al nome di Cesare Battisti. Io non ho seguito quello che è successo, non posso dire se sia colpevole o innocente. Parlano gli atti, sì, certo. Ergastoli, e questa persona non si è mai pentita. A me di Cesare Battisti, per lui, mi basta vedere la faccia, perché parla la sua faccia. Io spero che gli vada male tutto nella vita. Beh, adesso non voglio dire, non esageriamo, insomma, dalla faccia. Certo, ha degli atteggiamenti che non lo rendono simpatico. Questo è sceso ammanettato in Brasile, sorridendo, un po' sfrontato. Ha detto, torno in Italia e tornerò da uomo libero. Mario da Trento, c'è ancora? Mario da Trento è qui. Antonio da Milano, provi a convincere Mario da Trento, che ha messo giù Antonio da Milano. Volevo farla... Mi dispiace di quello che ha detto lì. Quello di, lì Antonio, Antonio, perché ha parlato con l'odio nel cuore, almeno questa è la mia impressione, diciamo. Quest'odio di vendetta, eccetera, no? Ma se fosse veramente innocente... ma questo no, però mi scusi, se ci sono delle sentenze passate in giudicato, certo, uno si può professare innocente finché vuole, però io la seguo finché lei dice non si deve parlare con l'odio, il rancore, è una sua posizione che rispetto. La questione della sentenza è la sentenza passata in giudicato. A questo proposito, Paolo Cento, la ringrazio comunque Mario, ho cercato di farla convincere da Antonio da Milano, ma ci ha sbattuto il telefono in faccia. Paolo Cento, lei è d'accordo, immagino, con questa idea, basta il rancore, basta l'odio, però effettivamente Maurizio Campagna, che è qui il fratello di Andrea Campagna, che parla con tutto tranne che con rancore e odio, vuole solo giustizia, niente di più. Ma io apprezzo il tono e ovviamente sono vicino, se mi è permesso, a Campagna, a tutte le vittime del terrorismo. Io credo che il problema non è il buonismo, il cattivismo, quindi se è un problema di rancore e di odio, il problema, per come lo guardo io, è essenzialmente un problema politico e culturale. Un paese che ha vinto la sua sfida contro il terrorismo a distanza di 30 anni deve avere anche il coraggio di chiudere quella stagione, ammettendo che per combattere il terrorismo vi sono state delle forzature nel sistema giudiziario. Questo, ripeto, non lo dico io, ma viene, insomma, l'Italia non fa bella figura quando rincorre giustamente qualcuno all'estero, perché queste sono enormi paesi altrettanto civili come l'Italia, ti dicono che le sentenze, come nel caso di Battisti, sono sentenze che non possono essere riconosciute da paesi come la Francia o da paesi come il Brasile fino a ieri. Ora vediamo cosa oggi accade. Che succede. Ma su questo, quindi il problema va anche oltre Battisti. Battisti non è persona che suscita simpatie, per quanto mi riguarda, suscita anche molte antipatie. Su questo il sondaggio sarebbe al 100%, credo, antipatie. Quindi la vicenda Battisti è una delle occasioni che si ripetono ciclicamente anche con altri personaggi che vengono dall'esperienza della lotta armata, da destra e da sinistra, e ci rinterroga su questo tema. Quindi io tenderei a dividere le due cose. Devo chiudere in 30 secondi. Giovanni Bianconi, perché l'ex presidente Cossiga, come tu tra l'altro rivelasti un po' di tempo fa, si è espresso in prima persona nel caso Battisti, e come? Ma lui ha scritto su sollecitazione degli avvocati di Battisti, sostenendo che quelli che aveva commesso Battisti erano appunto crimini a ispirazione politica. Io credo che su questo Cossiga difende un po' anche la sua storia, nel senso che lui è uno di quelli che dice anche noi abbiamo fatto forzature per motivi ugualmente politici. Sì, Cossiga è uno di quelli che dice... È una posizione un po' particolare. Perché diciamo, no l'amnistia, dice anche Cossiga, voglio sì, dire. Sì, appunto, è uno... lui difende anche la sua posizione di combattente, lui riconosce lo status di combattente ai terroristi, a coloro che hanno fatto la lotta armata, e si riconosce lui combattente in quanto ha fatto delle forzature, delle leggi che oggi non dico che rinnega, ma... Forse insomma, non rifarebbe così, insomma, da clima diverso. Perché lui, ma dico, però gli ha provocato insomma dei dubbi, insomma, quantomeno esatto, tanto da dover scrivere al tribunale. Io vi ringrazio, mi devo fermare da Giovanni Bianconi, Paolo Cento, e ringrazio molto anche Maurizio Campagna, fratello di Andrea, ucciso da Cesare Battisti. Questo dicono le carte, questo dicono i processi, passato in giudicato a Milano il 19 aprile del 79. Votate sul sito radio24.it bianco o nero, o sul sito del Sole 24 Ore, il sole24ore.com, il sondaggio: siete favorevoli a un'amnistia per gli anni di piombo? I saluti, i ringraziamenti ad Alessandro Marcotulli, Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domani alle 7:30.